la fluidità. Ah, benedetta la voce che fluisce, l'ugo la mossa, il suono che lambisce, il suono mobile, il godibile suono che porta e porta la fluidità, la quale transita e alita e respira proprio ove meglio voce incenerisce, ove toccata l'acqua disparisce e appare insana in là sgombrata. Che fiume, fiume, fiume, è frutto e fiore di fluidità, è partorito flutto, figliante, luccicante, vivido tutto, e padre e madre, e lunga figliatura, e lutto, fluentissima e copiosa natura. Voi così, acque a voce, e vocalica acqua a voi, fluite fluenti dove sciacqua la bella mano, la polla e la risacca. Pantano mai vi accolga, mai palude, acque a voce che tutta me prelude, palude non vi colga né pantano. Oh vocalica acqua, fluidissima mano.